31 dicembre de Il giornalino di Gian Burrasca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di pubblico dominio. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Riccardo Fasol. Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba. 31 dicembre. Com'è uggioso quel cavalier Metello! Anche oggi mi ha portato a veder Roma, e questo mi fa piacere, ma lui ci mette tante spiegazioni che è una cosa insopportabile. Per esempio, dinanzi all'arco di Settimio Severo si è messo a dire: questo splendido arco trionfale eretto dal Senato l'anno 205 dell'era cristiana, in onore di Settimio Severo e dei suoi figli Caracalla e Geta, ha sulle due facce una iscrizione nella quale è detto come in seguito alle vittorie riportate sui Parti, sugli Arabi, sugli Adiabeni. Ah, alla fine del discorso quest'arco di Settimio Severo mi pareva d'averlo tutto sullo stomaco, e la mia bocca era diventata fino arco trionfale più grande di tutti gli archi trionfali di Roma messi insieme. La sora Matilde, cioè la sorella di Collalto, è molto brutta e molto uggiosa, e non fa che sospirare e discorrere col gatto e col canarino. Però con me va molto d'accordo, e anche oggi mi ha detto che in fondo sono un buon figliuolo. Mi domanda sempre com'era Luisa da ragazza e che cosa faceva e diceva, e io le ho raccontato la storia delle fotografie che trovai in camera sua prima che pigliasse marito e della burletta che feci distribuendole ai rispettivi originali, e poi le ho detto anche di quando le trovai nel cassetto della toletta un vasetto di pomata rossa con la quale mi tinsi le gote, e lei s'arrabbiò tanto e mi dette perfino uno schiaffo perché c'era presente la sua amica Bice Rossi, che era una ragazza pettegola, e non le sarebbe parso il vero d'andare a dire che mia sorella si tingeva. Bisogna vedere come si divertiva la sora Matilde a sentirmi descrivere queste cose, e basti dire che da ultimo mi ha regalato 5 gianduiotti e 2 caramelle di limone. E bisogna proprio dire che mi vuol bene, perché a quel che dice la Luisa è più golosa lei di dolci che 10 ragazzi, e se li mangia tutti per sé. Se li tiene tutti chiusi nell'armadio e ce n'ha di tutte le qualità, ma se mi riesce un di questi giorni di metterci le mani, può dire addio alle sue provviste. Ora, caro giornalino, ti lascio, perché domani è il primo dell'anno e devo scrivere una lettera ai miei genitori per chieder perdono delle mie mancanze di quest'anno e promettere per l'anno nuovo d'esser buono, studioso e ubbidiente. Fine del 31 dicembre.